Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eccoci ritrovati in diretta, buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Lo sapete, il governo si prepara ad approvare nel prossimo Consiglio dei Ministri un pacchetto lavoro. Per la verità, questo prossimo Consiglio dei Ministri è questo appuntamento previsto per domani. Le misure avranno l'obiettivo di aumentare l'intensità sul piano occupazionale della ripresa economica. E sono state proprio queste le parole utilizzate dal ministro del welfare Enrico Giovannini. I fondi messi a disposizione saranno pari ad 1 miliardo di euro. Qualcuno dice che chiaramente sono troppo poche queste risorse, lo ha detto ieri il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, in attesa di ulteriori stanziamenti che dovrebbero comunque arrivare entro la fine del 2013 dall'Unione Europea. Tra le decisioni attese ci sono una revisione dell'attuale normativa in tema di contratti a tempo determinato, una riforma dei servizi per l'impiego, interventi di semplificazione sull'apprendistato. Allora, Salva Danaio dedica un nuovo martedì del lavoro a questi argomenti, che peraltro sono tutti temi che erano stati oggetto chiaramente della riforma Fornero, della quale abbiamo parlato in tante puntate di Salva Danaio, quindi oggi li riassumiamo un po' tutti per capire quali sono invece gli interventi su questi punti che domani appunto affronterà e prenderà il governo. Ricorderemo quindi le regole attualmente in vigore e commenteremo i possibili cambiamenti in arrivo. 800 24 00 24, il numero verde che potete utilizzare per intervenire in diretta, naturalmente chiedendoci chiarimenti sulle novità in arrivo, oppure scriveteci al 349 238 6666, scriveteci all'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it. siamo su Facebook al profilo salvadanaio-radio24 e anche su Twitter @salvadanaio24. Con noi stamattina ci saranno l'avvocato Giampiero Falasca, jus laborista, esperto delle tematiche del lavoro per il Sole 24 Ore. Buongiorno avvocato e bentornato. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Bentornata anche alla dottoressa Maria Rosa Gheido, consulente del lavoro, un'altra esperta in materia previdenziale, in materia del lavoro appunto per il Sole 24 Ore. Buongiorno e bentrovata anche a lei. Buongiorno a tutti. Nel frattempo ci sta raggiungendo anche piano piano la nostra Valentina Melis, collega appunto delle Sole 24 Ore. Valentina, buongiorno. Buongiorno. Allora, vi ho ricordato tutte le modalità che avete per intervenire sul tema di oggi. Adesso diamo un'occhiata anche a quello che accade in borsa. Sono stati molti oggi gli ascoltatori che sono intervenuti con diverse mail puntualizzando un po' i contenuti dei collegamenti di borsa che abbiamo fatto questa mattina, nel corso dei quali ho detto più volte che la borsa di Shanghai stamattina riperdeva 5 punti percentuali. Nel corso della sua seduta è arrivata a perdere questo livello, meno 5 punti, poi ha recuperato proprio negli ultimi minuti, nel finale, e ha chiuso con un ribasso dello 0,19%, è però sempre sui minimi da 4 anni a questa parte. Come sapete, proprio Cina nelle ultime giornate un po' l'epicentro delle tensioni degli investitori. C'è questa potenziale crisi di liquidità del sistema bancario, che non è stata contrastata fino a questo momento da iniziative incisive della Banca Centrale del Paese, e quindi gli operatori sono un po' tutti nervosi per questo. Nervosismo da qualche giorno è molto forte sui mercati finanziari internazionali e anche di altre aree. L'Europa ieri nuovi cali pesanti, stamattina tenta un rimbalzino ma è molto modesto, più 1,28% su Parigi, più 1,49% su Francoforte. Londra guadagna un punto e Milano stava guadagnando un po' di più e adesso vedo che affievolisce il suo rialzo, più 0,4%. Sono in calo molte banche, sono in calo alcuni titoli difensivi. Pesa probabilmente l'esito dell'asta dei titoli di Stato che c'è stata questa mattina, che ha visto di nuovo riprendere il volo i rendimenti per i CTZ collocati quest'oggi, 3,5 miliardi di scadenza a 24 mesi. Il rendimento è volato ai massimi dal settembre del 2012, raggiungendo il 2,4%. Pensate che nell'asta di maggio il rendimento su questo titolo era dell'1,11%, quindi praticamente in un mese è più che raddoppiato. In aumento anche i rendimenti dei BTP indicizzati all'inflazione, collocati questa mattina a scadenze diversi per 1 miliardo circa di euro. Insomma, il tenore è questo, abbiamo molto nervosismo e vediamo un po' se si tornerà a calmare nei prossimi giorni. I titoli migliori rapidamente: Mediaset rimbalza dopo il tracollo di ieri, che era seguito appunto alla sentenza su Silvio Berlusconi nel processo Ruby. Mediaset oggi riprende quota, più 4,60, bene Fiat più 3,28, Diasorin più 2,57, Prismian più 2,28. Lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di oggi, martedì del lavoro, le novità in arrivo dal piano del governo. Questa settimana il mio governo farà passi importanti per tagliare il costo del lavoro per le nuove assunzioni, riorganizzare i servizi di pubblico impiego, semplificare l'apprendistato e aumentare la flessibilità in entrata. Non sono pochi i buoni propositi espressi dal Presidente del Consiglio, Enrico Letta, in un articolo pubblicato dal Financial Times, riferendosi al pacchetto lavoro che il governo dovrebbe approvare durante la riunione del Consiglio dei Ministri, fissati per la giornata di domani. Il pacchetto si basa al momento su risorse limitate, come le ha definite il Ministro del Lavoro, Enrico Giovannini. Dovrebbero essere pari a 1 miliardo di euro, denaro che verrà stanziato in attesa di essere rimpinguato da ulteriori fondi europei, in arrivo entro la fine del 2013. Tra le misure più rilevanti dovrebbe esserci una modifica del periodo che deve intercorrere tra due assunzioni a tempo determinato, affinché queste non vadano a sommarsi. L'ultima riforma del lavoro aveva innalzato il tempo di attesa per il rinnovo di un'assunzione temporanea, stabilendo un minimo di 60 e un massimo di 90 giorni. Su questo punto si vorrebbe fare marcia indietro, ripristinando le regole in vigore fino all'anno scorso, che prevedevano un intervallo tra 10 e 20 giorni. Una revisione dell'impianto Fornero che puntava a incentivare il tempo indeterminato. Una ricetta diversa, per evitare che norme nate per scoraggiare il lavoro precario possano finire per scoraggiare del tutto il lavoro. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi in diretta. Vedo già pronti molti ascoltatori, tra cui qualche papà, di qualche papà preoccupato, di figli che evidentemente devono collocarsi in qualche maniera. D'altronde, Valentina Melis, questo piano del governo che verrà presentato ufficialmente domani, anche se oggi ci sono molte indiscrezioni in circolazione, anche il Sole 24 Ore ha pubblicato molte anticipazioni appunto su i punti principali di questo piano. Dicevo appunto, l'obiettivo principale è proprio quello di combattere la disoccupazione giovanile, emergenza numero uno in Italia. In Italia e in Europa, perché questa partita che si gioca sul decreto di domani mette in campo 1 miliardo di fondi che derivano dalla riprogrammazione di fondi comunitari vecchi, diciamo così, della tranche 2007-2013 che non sono stati usati, e allora nell'emergenza si fa ricorso a questi. La vera partita, e l'ha detto oggi anche il Presidente del Consiglio Enrico Letta, si giocherà poi nel futuro con i nuovi fondi 2013-2020. All'Italia dovrebbero toccare su una torta di 6 miliardi totali per il lavoro, almeno 500 milioni che bisogna mettere in campo. Infatti lo stesso Letta ha annunciato un nuovo pacchetto dopo questo di domani, che metterà in campo nuove risorse, ad esempio per la famosa garanzia per i giovani, quel programma europeo che mira a garantire ai giovani dopo la scuola senza un impiego una chance di lavoro, quindi stage, tirocini o comunque un inizio di attività lavorativa, e su questo ci sarebbero 500 milioni che il governo vorrebbe mettere in campo subito dopo questo miliardo. Vedremo come andrà. Le risorse ci sono, non sono molte, però già è qualcosa insomma per partire, dopodiché si spera che questi soldi possano moltiplicarsi nel momento in cui chiaramente queste persone, questi ragazzi soprattutto, vengono impiegati. Allora, i punti che sono contenuti all'interno della bozza del decreto, vi dicevo, oggi il Sole 24 Ore ne pubblica alcune anticipazioni. Ci sono incentivi alle assunzioni, naturalmente delle novità che riguardano i servizi per l'impiego, che dovrebbero essere anche, come dire, ristrutturati in maniera abbastanza incisiva, perché non vengono molto utilizzati nel paese. Poi cercheremo di capire per quale motivo. Modifiche che riguardano il contratto di apprendistato, sul quale si puntava molto con la precedente riforma e invece a quanto pare ha bisogno di interventi di semplificazioni. E poi c'è anche tutto un pacchetto di interventi legato all'Expo 2015, che è questa grande iniziativa appunto che riguarda fondamentalmente la città di Milano, ma che chiaramente si spera possa spalmare i suoi effetti anche su tutto il territorio italiano. Giampiero Falasca, avvocato Falasca, comincio con lei. Il lavoro a tempo determinato. Quali sono i pensieri che ha su questo tema il ministro Giovannini? Ma sì, allora qui credo che la partita sia ancora tutta aperta, no? Cioè credo che si stiano fronteggiando due opinioni diverse, perché il vero problema del contratto a tempo determinato è che questo contratto ha come effetto indiretto quello di produrre molte cause, cioè finisce il rapporto a termine e puntualmente parte un contenzioso. Questo contenzioso c'è perché c'è un requisito, la cosiddetta causale, che è molto interpretabile, non si sa mai se si è adempienti o meno, e quindi i giudici lo interpretano ciascuno a modo loro e rende assolutamente incerta la gestione del lavoro flessibile. E diciamo che allora, i giudici mediamente interpretano anche a favore del lavoratore. E quindi esatto, magari, però diciamo che per definizione, non essendoci un parametro oggettivo, non è un numero, ognuno ha la sua idea. Allora la proposta, che tra l'altro anche io vedo con molto favore, che gira in queste settimane, togliamo questo requisito, perché toglie competitività al sistema dire che ogni contratto a termine si porta una causa, no? Cioè, le aziende straniere. Quindi qual è il requisito che si dovrebbe togliere? Mi scusi? La causale, cioè l'obbligo di. Allora l'obiezione è: ma in questo modo favoriamo troppo i contratti a termine. Questa obiezione è facile da superare, perché si dovrebbe togliere la causale e al posto di questa mettere un limite quantitativo e di durata. Quello di durata c'è già, ma insomma si dovrebbe dire: chi sa contare è in grado di rispettare le norme, chi non sa contare no. Per essere anche chiari, avvocato Falasca, poi la lascio concludere con i nostri ascoltatori sulla questione della causale. Cerchiamo di capire in che cosa consiste, perché questa causale deve essere inserita nei contratti a termine e che tipo appunto di significato ha questo intervento. L'Unione Europea ci chiede una cosa giusta, dice che ogni paese deve contenere l'eccessivo utilizzo, l'eccessiva reiterazione dei contratti a termine. Quindi vanno trovate delle tecniche per evitare che la precarietà, la flessibilità sia una situazione costante che diventa precarietà. L'Italia che tecnica usa? Usa una tecnica di durata, non può superare 36 mesi il contratto a termine, e poi usa la tecnica della causale. Ogni azienda deve dire perché mette un termine al contratto e perché non ha scelto di andare a tempo indeterminato, e quindi è diventato un genere letterario. C'è l'azienda che dice: io ho un progetto straordinario, io ho una commessa di cui non ho evidenza oltre 6 mesi, cioè devo dare la giustificazione, ma poi c'è qualcuno, il giudice, che mi deve controllare se la giustificazione è valida o meno. Allora, siccome è una tecnica, la proposta in campo è: cambiamo tecnica, usiamo una tecnica più oggettiva, che può essere quella di lasciare solo ai limiti appunto di durata e quantitativi. Ora le spiego però quello che sta accadendo. Noi siamo un paese di giuristi amanti delle complicazioni e delle cose pasticciate. Se lo sta dicendo se medesimo, avvocato? A me medesimo. Ecco. Allora, da questa che era una proposta semplice, direi quasi banale, l'uovo di Colombo, sta partendo tutta una corrente di pensiero che dice: no, togliamo la causale, ma solo a determinate condizioni. Proseguiamo quello che ha fatto la Fornero, perché anche la legge Fornero ha tolto la causale, ma solo per il primo contratto, per una durata massima di 12 mesi, senza previa. Insomma, passiamo da una procedura a un'altra procedura. Questo secondo me ha impatto zero sulle imprese, sul sistema economico, perché non semplifica nulla, cioè è un'apparente semplificazione che lascia saldamente la questione in mano agli avvocati e ai consulenti del lavoro. Ecco, quindi diciamo che l'obiettivo sarebbe di intervenire con una semplificazione in questo ambito per tentare di arginare gli interventi giudiziari. In 2 secondi le dico anche l'altra cosa che stanno facendo: stanno riportando, come avete detto, la scheda, il cosiddetto stop and go, l'intervallo da un contratto all'altro. Sì. Attenzione, perché non è una novità, è un tornare a una regola che già c'era prima della legge Fornero, e quindi l'impatto anche di questa revisione non è particolarmente rilevante, anche perché in questi mesi i contratti collettivi avevano già neutralizzato quella regola. Non è rilevante, però in realtà quando ci eravamo occupati a Salvadanaio di questo argomento, avvocato Falasca, forse c'era anche lei, in realtà avevamo visto che era un aspetto che indispettiva molto i ragazzi, i giovani, che in realtà non potevano, come dire, avere 2 contratti a tempo determinato in tempi ravvicinati, proprio perché appunto la riforma Fornero aveva allungato questo spazio tra 60 e 90 giorni, adesso lo riportiamo, e quindi magari si aprono un po' più delle speranze di avere, come dire, un rapporto di lavoro un po' più stabile nel tempo, magari con una medesima azienda. In quel caso precedente invece l'azienda chiaramente non poteva permettersi di mandare a casa una persona e aspettare per 3 mesi che questa rientrasse, e ne prendeva un'altra. Per cui non so, lei non la vede così? No, sono d'accordo, però qual è il fatto? Che la legge Fornero ha portato a 60-90, poi si sono resi conto del pasticcio, ha detto i contratti collettivi possono ridurre a 20-30, e in questi mesi fortunatamente il danno è stato ridotto. Quindi oggi il ministro Giovannini interviene su un tema che dalla contrattazione collettiva è stato già attenuato. La verità è che non ha proprio nessun senso mettere uno stop da un contratto all'altro, sono d'accordo con lei. È un'altra delle regole di cui ci innamoriamo noi, convinti ecco. Queste regole servano a stabilizzare i rapporti di lavoro, li stabilizza l'economia, non i chiusi lavori. Allora, sì, ci fermiamo, avvocato Falasca, chiedo un minuto di pazienza a Maria Rosa Gheido. Prima di fare la pausa, però, se Gianmarco è d'accordo, vorrei sentire Massimiliano dalla provincia di Treviso, perché mi dà un assist perfetto per poi riprendere il tema dell'apprendistato nella seconda parte del programma. Massimiliano, buongiorno. Pronto, buongiorno. Ci dica. Ascolti una cosa, mia figlia è attualmente in stage aziendale post laurea e questo stage praticamente prevede la fine di questo periodo di prova verso la fine di luglio. Gli è già stato, come si può dire, confermato che verrà assunta in apprendistato. Scusi, stavo facendo le scale. No, si fermi per carità del cielo, che sennò cade e si distrae. Quindi il tema qual è? Deve capire se è un'opzione conveniente per sua figlia o meno? Sì, volevo sapere se secondo lei gli conviene aspettare a questo punto cioè la nuova normativa che prevederà, presumo, qualche incentivo per i ragazzi, o gli conviene firmare attualmente lo stage? Ecco, certo, Massimiliano. Quindi il tema è capire qual è la riformulazione dell'apprendistato nell'obiettivo appunto del ministro Giovannini, per chi sarà più conveniente questa semplificazione, se per l'azienda o per il neo assunto. Su tutto questo ritorniamo tra qualche minuto. Precario il mondo, flessibile la terra che sta prestando. Investire nel potenziamento dei servizi per l'impiego. C'è anche questo punto nell'agenda del governo, che dovrebbe approvare domani un nuovo pacchetto lavoro. I centri per l'impiego in Italia non coprono neppure il 4% delle intermediazioni tra domande e offerte di lavoro. Nel 2011 il 60,5% degli utenti non ha ottenuto un lavoro e il 32,8% non ha seguito un iter di formazione professionale. Purtroppo nel nostro paese i canali privilegiati per trovare un posto continuano ad essere altri, a partire dalle conoscenze. Secondo le rilevazioni ISFOL Plus, il 32% dei neoassunti si è rivolto ad amici, parenti e conoscenti, una cifra che sale al 40,9% per i giovani al di sotto dei 29 anni. Una questione culturale? Forse, ma non solo. Potrebbe essere anche un problema di investimenti. L'Italia spende pochissimo per i servizi all'impiego. Lo 0,029% del PIL nel 2010, contro lo 0,378% della Germania e lo 0,489% della Svezia. E nel corso del programma cercheremo di capire anche quali sono i piani del governo per implementare l'attività dei servizi per l'impiego, per migliorarla e incentivarla anche dal punto di vista delle aziende. Però c'era un ascoltatore, Massimiliano da Treviso, che ci ha fatto una domanda prima, con la quale introduco di nuovo Maria Rosa Gheido, la nostra consulente del lavoro, esperta anche per Il Sole 24 Ore su queste tematiche. Massimiliano ha una figlia appena laureata, ha fatto uno stage in azienda. Questa azienda è pronta ad assumerla con un contratto di apprendistato. Massimiliano chiede: mi conviene aspettare che ci sia qualche dettaglio in più rispetto alla riforma Giovannini, dopo quella del ministro Elsa Fornero, o, come ci dicevamo a microfoni spenti io e Valentina Melis, metterei subito la firma su questo contratto? Dottoressa Gheido. Condivido il vostro pensiero, anch'io firmerei il contratto e non mi porrei questo problema, anche perché dalla bozza che sta circolando sembra di capire che l'intervento sarà comunque un intervento diciamo di semplificazione, inteso a quel versante dei datori di lavoro che ha grosse difficoltà a districarsi sugli obblighi formativi, quindi potrà interessare il lavoratore, ma solo di riflesso, perché chiaramente una buona formazione è un forte interesse del lavoratore. Però l'intervento dovrebbe razionalizzare quella che oggi è una sorta di mosaico difficilissimo da incastrare, perché ogni regione ha le sue regole, qualcuna forse nemmeno ne ha, e malgrado il tentativo della legge Fornero di accentuare il ruolo della contrattazione collettiva e quindi di ridurre in qualche modo l'intervento regionale, A tutt'oggi la vera grossa difficoltà nell'instaurare un rapporto di apprendistato è proprio il capire quale formazione, da parte di chi, in che modo. Per cui l'intervento sarà probabilmente di questo tipo, così come ci auguriamo tutti che si riesca a trovare le risorse per estendere lo sgravio contributivo dalle piccolissime, dalle microimprese alle imprese un po' più grandi. Quindi gli interventi saranno soprattutto a vantaggio, e questo lo virgoletto, dei datori di lavoro che dovrebbero essere agevolati nell'instaurare questo contratto, che io rimango di un'idea che ho da sempre, è uno dei migliori contratti e forse l'unico per un inserimento serio e ragionevole del giovane in impresa. Del quale non si è fatto troppo uso, un soddisfacente uso, appunto, esatto, ecco, da quanto è stato varato. Poi le faccio fare qualche considerazione, dottoressa Gheido, anche sull'ambito molto importante del lavoro a progetto, perché dopo la stretta della riforma Fornero potrebbe riallargarsi l'ambito di applicazione della collaborazione a progetto. Adesso ne parleremo, però con Valentina Melis volevo fare un punto sugli incentivi alle assunzioni nel Sud Italia, perché di tutto questo miliardo di euro che il governo è pronto a mettere sul piatto per questo piano del lavoro, solo 500 milioni finiscono proprio, come dire, al sud in termini di incentivi, appunto, dicevo, alle assunzioni. In che modo e a favore di chi? Certo, perché questi sono fondi che, come dicevamo prima, derivano dalla riprogrammazione dei fondi comunitari per aree svantaggiate e quindi, come ha precisato anche il Presidente del Consiglio, dovranno necessariamente essere indirizzati alle regioni del meridione, e dalle indiscrezioni che circolano in questi giorni appare che il meccanismo sia quello della decontribuzione o del credito d'imposta, più probabilmente per coloro che assumono giovani meridionali di età compresa tra i 18 e i 29 anni, con il tetto all'incentivo che, secondo la bozza che sta circolando in queste ore e che oggi il Sole 24 Ore anticipa, sarà di 650 euro al mese per ogni lavoratore. Il Premier ha detto che si spera di estendere anche al nord questi incentivi, ma servono i fondi della nuova programmazione, quindi servono ulteriori risorse. Per il momento, quindi, questa è la prima dote. Le altre doti in campo sono due. Una è l'ipotesi di estendere il bonus sud, che è invece un credito d'imposta previsto dal DL 70 del 2011, però sempre per le aree svantaggiate, quindi sempre per le regioni meridionali, e questo c'è il progetto di rifinanziarlo, però diciamo che questo non ha avuto un grande impatto fino ad oggi in termini di assunzioni. E poi c'è un altro tesoretto che invece è legato alla riforma del lavoro, cioè, se ricordate, già la legge 92 del 2012 prevedeva lo sconto del 50% sui contributi per i datori che assumessero donne, sempre nelle aree svantaggiate, oppure lavoratori over 50. Questa parte della legge Fornero non è stata mai attuata, anche se le risorse erano già state messe in campo. Abbiamo fatto delle puntate, eravamo lì sulla rampa di lancio, ma poi non è partito nulla. E da quello che ci hanno detto questa settimana i tecnici del Ministero, l'obiettivo di Giovannini sarebbe quello di sbloccare l'attuazione di questa parte della riforma e di iniettare queste risorse immediatamente nel sistema. Qui si tratta di uno sconto dei contributi del 50%, che non è poco, ma anche qui bisognerà vedere poi quale sarà la dotazione effettiva e se nel tempo potranno essere mantenuti questi Ritornerei incentivi. Al tema dei centri per l'impiego con la testimonianza di Daniela da Cuneo, perché mi interessa molto. Daniela, buongiorno. Oh, buongiorno. Dunque, io le telefono per raccontare la storia di mia figlia Silvia, di 22 anni quest'anno. Mia figlia è un'apprendista parrucchiera, ha già fatto 4 anni di apprendistato, poi i negozi hanno chiuso nei centri commerciali dove lei lavorava, quindi è rimasta senza lavoro. Insomma, alla fine si è iscritta al centro per l'impiego di Cuneo, dove hanno fatto dei colloqui obbligatori, insomma, eccetera, ed è stato avviato un'iniziativa di tirocinio. Questo tirocinio sarebbe, loro cercavano un lavoro a Silvia, finalizzato poi all'assunzione, con un tirocinio di 3 mesi pagato dal centro dell'impiego. Cioè, praticamente mia figlia prendeva 500 euro al mese appena iniziato questo tirocinio di 3 mesi, però finalizzato all'assunzione. Mm-hmm. Il centro dell'impiego di Cuneo non le ha trovato alcun lavoro per quanto riguarda il tirocinio, ma se l'è trovato lei. Lei ha cercato dei parrucchieri e ne ha trovato uno parrucchiere Nino di Fossano che ha accettato questo tipo di contratto. Lei ha chiamato il centro dell'impiego e dice: guardate, l'ho trovato io, ho accettato, eccetera. Insomma, alla fine il centro dell'impiego ha tirato talmente per le lunghe l'avvio di questo tirocinio, mettendo di mezzo che dovevano andare agli artigiani, dovevano fare chissà cosa. Insomma, dopo 4 settimane, ieri questo parrucchiere ha telefonato a mia figlia dicendo che è passato troppo tempo per avviare il tirocinio, che per il momento se ne parlava poi a settembre, perché nel frattempo il lavoro è leggermente calato, quindi lei non avrebbe potuto fare il tirocinio. Ha ricevuto le scuse della responsabile, questa mattina si è recata dalla responsabile e fa: invece di trovarmi il lavoro me lo trovo io e voi me lo fate perdere. Alla fine questa si è informata, le ha portato 1000 scuse a mia figlia, e alla fine Silvia comunque non ha potuto fare né questo tirocinio né tutto il resto. Cioè, tenga duro Daniela, soprattutto a sua figlia, che comunque la vedo anche bella animata da spirito di iniziativa. Gian Piero Falasca, sono questi i motivi per cui il centro dell'impiego non funziona, no? No, diciamo che il motivo è strutturale, cioè io ho il terrore che mettano risorse domani sui centri per l'impiego, lo dico in maniera un po' paradossale, ma neanche tanto, perché sarebbero soldi sprecati. Cioè, il problema oggi non è che non ci sono risorse, i centri per l'impiego in questi 15 anni sono stati inondati di risorse comunitarie, sono stati inondati di formazione, di investimenti strutturali, ma è un sistema che è centrato su 100 province, ognuna con qualche ufficio, e fuori, quindi sulle strutture pubbliche, e fuori c'è un mondo fatto di oltre 2000 sportelli di agenzie private che lo fanno per profitto, che viene totalmente ignorato dalla rete dei servizi per l'impiego. Quindi la prima cosa da fare secondo me sarebbe cambiare modello, cioè passare da un modello pubblico centrico a un modello integrato pubblico. Mi pare che l'obiettivo sia quello, comunque, quello di domani, portare avanti delle sinergie con il settore privato. Esatto, però ricordiamo che in Germania Schröder lo fece nel 2003 e in tutta Europa questo succede, cioè i privati prendono un premio se collocano le fasce svantaggiate, hanno gli incentivi se fanno azioni di collocamento mirato, cioè sono strumenti del sistema, il servizio è pubblico, ma il soggetto che lo eroga può essere pubblico o privato. Noi invece siamo ancora ancorati a una visione molto vecchia, molto datata. Non sono sicurissimo che domani si andrà in questa direzione, ma insomma soprattutto il sottosegretario Carlo Della Ringa è molto esperto di questi temi, quindi speriamo che li sollevi, certo, esatto. E magari speriamo che qualcuno abbia sentito anche la testimonianza della nostra ascoltatrice di Cuneo per portarla anche domani, certo, come dire ambito di criticità molto forte dell'attività dei centri per l'impiego. Volevo sentire Maria Rosa Gheido se ha qualche cosa da commentare sul tema dei centri per l'impiego. Sì, come diciamo persona che per mestiere li frequenta, devo dire che uno dei problemi è in qualche modo l'autosufficienza di ciascuno di loro, e dico questo nel senso che ci sono centri per l'impiego che funzionano, centri per l'impiego bloccati, centri per l'impiego che non si capisce bene a cosa servono. Ogni provincia si attrezza, fa cose buone, altre sono quasi incapaci. Credo che sia molto vero quello che ha accennato l'avvocato Falasca. Bisognerebbe innanzitutto farli diventare dei coordinamenti, dei capofila, ma non delle entità che funzionano in esclusiva. Bisognerebbe affidare a loro un coordinamento funzionante di tutte quelle possibilità di avviare con benefici delle fasce deboli o delle fasce svantaggiate. Mi riferisco ai disoccupati di lungo periodo, ma anche ai disoccupati di breve periodo, licenziati perché l'attività chiude, perché si riduce il personale. E fra l'altro vedo che fra i provvedimenti c'è anche in itinere questo di eventualmente riconoscere un pezzettino dell'ASPI, sarebbe a dire dell'ex indennità di disoccupazione, in caso di assunzione, che in qualche modo andrebbe un pochino a placare l'ira di tutti coloro che sono stati licenziati dalle piccole, piccolissime aziende che potevano essere assunti con riduzioni contributive fino al 31 dicembre 2012 e che oggi invece non hanno più alcun beneficio perché non c'è alcun incentivo ad assumerli. E tra l'altro, questa è la riflessione di un ascoltatore, sì. Pierluigi da Verona, lo faccio intervenire dopo, che voleva proprio commentare questo, che tutto un pacchetto di agevolazioni delle quali parliamo oggi dovrebbero essere un po' più incisive per tutte le fasce lavorative, non solo per giovani appunto e esodati. Un consiglio per chi è alla ricerca di un lavoro? Potrebbe essere quello di guardare alla cosiddetta food economy. Sono molte, infatti, le nuove figure professionali e i posti di lavoro richiesti nell'ambito dei mestieri legati al palato, alla buona tavola, ma anche alla terra. Confesercenti e Confartigianato definiscono introvabili diverse categorie di professionisti del cibo, alcune delle quali inedite, come il gelataio biologico o i mini agricoltori da balcone e terrazzo. L'Italia non può che muoversi in modo attento e strategico in questo mercato, nel quale ha così tanti assi da giocarsi, con un'attenzione crescente verso la qualità della produzione. L'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, legata a Slow Food, ha deciso, non a caso, di attivare quest'anno corsi di alto apprendistato per panettieri, mastribirrai, affinatori di formaggi. Nella terra della pizza margherita, dove il 17% dei turisti dichiarano di arrivare proprio perché attratti dal cibo, suona quantomeno un po' strano che manchino all'appello circa 6.000 pizzaioli. Ti senti più stagionatrice di miele, Valentina, o più alchimista di campagna piuttosto che personal trainer? Noi scherziamo, in realtà legato appunto al cibo c'è tutto un maremoto del settore del lavoro che si sta muovendo, quindi ragazzi andate a cogliere anche queste opportunità, anche se sono temporanee, ma insomma è una crescita per tutti e quindi abbiamo voluto fare anche questa scheda un po' oggi divertente per capire anche se tutte queste professioni si potranno cogliere queste opportunità con le nuove tipologie di contratto che domani il ministro Giovannini varerà, la rimodulazione di quelli già esistenti. Un paio di ascoltatori, poi andiamo a chiudere con i nostri ospiti. Avevo lanciato Pierluigi da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Rapidissimo, la ringrazio. Sì, niente, io sono un precario, sono la fascia di mezzo, diciamo, però le agevolazioni dovrebbero essere su tutto il pacchetto, come vedete. La fascia di mezzo cosa vuol dire, Pierluigi? Quanti anni ha? Io ho 30, ne ho 38 e ho tre figli minorenni ed è 5 anni che sono precario. Sto lavorando in un'azienda da 3 anni, ma con vari contratti, insomma, ecco. E io penso che la agevolazione deve essere da studi, oltretutto che quel lavoro che faccio è da 20 anni, che ho cominciato 15 anni e mezzo a lavorare. Certo, quindi non è che ha iniziato ieri in un momento difficile, comunque magari una stabilizzazione lei se la sarebbe meritata e come. Pierluigi, la ringrazio. Fare anche altri lavori, però è una situazione molto difficile perché anche qua l'azienda è una grossa, però ha dei problemi. Dunque le agevolazioni date, a volte uno non capisce, gli si danno un'agevolazione, ma... sempre alle aziende, il dipendente non capisce che agevolazione va a prendere, perché quando lo Stato fa le leggi come sulle pensioni li hanno fatti male, ma li hanno fatti velocemente. Quando c'è da portare lo stipendio alla media europea sembra super difficile, dunque non si capisce mai qual è il vero problema. Il vero problema è il cuneo fiscale, Pierluigi si chiama, e lo dicevamo poco fa con Valentina Melis. Adesso non riesco ad aprire anche questa parentesi perché ho pochissimi minuti, volevo sentire chi possiamo sentire. Marco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo portare la mia esperienza come precario. Io ho iniziato ad essere precario nel 2000, ho 37 anni, ho lavorato per una compagnia aerea, tra l'altro famosa, non voglio dire il nome per questione di ricatti o cose del genere. È italiana o straniera? È italianissima. Ah, vabbè, allora. Super italiana. Ok. Praticamente ho lavorato per 12 anni come precario in questa azienda. I precari non venivano assunti soltanto nei periodi di alta stagione, ma tutto l'anno, quindi c'era un riciclo tutto l'anno di diversi precari, quindi non era vero che venivano assunti per sopperire ad esempio a delle carenze operative, per aumenti di volo, di stagioni, cose del genere. E in più, da quando è uscita fuori la legge dei 36 mesi, dopo i 36 mesi si veniva presi, mandati a casa e presi nuovi precari. Questa è stata le fantastiche leggi fatte dai nostri governanti negli ultimi anni. Io sono entrato che avevo 22 anni, adesso 37 anni, ho fatto causa per poter essere assunto, l'ho vinta, la famosa causa con l'articolo 1 dove veniva specificato delle motivazioni assurde, tipo coperture malattie che non erano assolutamente vere. Ma in un'azienda che si comporta così adesso può essere quella come un'altra, Marco, ma non le viene voglia di cambiare completamente settore, magari mettere, adesso chiaramente è un momento difficile, ma io mi dico qualche anno fa quando il contesto era un po' più favorevole. vuole anche. Cambiare no, deve proprio andare a arrivare alla conflittualità. La voglio provocare ovviamente in questo senso, no, Marco, non è una scelta voluto, che... Io non ho voluto arrivare alla conflittualità, l'ho voluto far rispettare i miei diritti come lavoratore. Comunque com'è finita adesso? Sono a tempo indeterminato, dopo aver vinto la causa ovviamente. Tra l'altro sono l'azienda mi tratta anche molto bene, perché per loro sono uno dei lavoratori migliori che hanno, quello che dicono. Quindi non sono in conflittualità con l'azienda, l'azienda mi capisce anche sulle motivazioni per cui ho fatto la causa, e tra l'altro mi hanno anche detto che sarà l'unico motivo per poter entrare, siamo contenti che l'ha fatta. Quindi alla fine, cioè io adesso l'unica preoccupazione che c'è è questa. Io adesso ho 37 anni, questa azienda non sta andando bene come tutte le aziende aeronautiche in Italia, vengo lasciata a casa. Adesso dopo che ho aspettato leggi a favore dei giovani non sono mai arrivate, adesso sono arrivate e non sono più giovane. Voglio capire. Ma lei non è mai contento? Intanto speriamo che la sua azienda continui ad andare bene. Io lo spero anch'io, lo spero. La prego di concludere perché devo andare a concludere. Quindi lei insomma è preoccupato per il futuro. La mia domanda era questa, per noi tra i 35 anni e i 50 anni, rimaniamo a piedi, cosa dobbiamo fare? Grazie, Marco, intanto speriamo che lei, intanto occupiamoci di quelli che ci stanno a piedi in questo momento, lei stia tranquillo nel suo posto e speriamo che naturalmente sia tutelato fino al termine. Volevo sentire, poi adesso non so se riesco a rispondere all'ascoltatore, però siccome ho lasciato in sospeso il tema del lavoro a progetto con Maria Rosa Gheido, volevo magari per un minuto cercare di spiegare quello che potrebbe cambiare in questo ambito che è molto vasto. Sì, l'intervento sul lavoro a progetto fatto in un momento di crisi aveva un intento lodevole, che era quello di scoraggiare l'uso improprio di quel contratto, ma ha avuto un risultato ferale, perché non se ne fanno più quei pochi che c'erano, o meglio quei tanti che c'erano, sono stati probabilmente chiusi, e oggi si cerca di intervenire alleggerendo un pochino i vincoli. Leggo che l'intervento dovrebbe riguardare soprattutto quello che è una, diciamo, un limite forse il più pesante che è stato introdotto dalla legge Fornero, l'impossibilità di stipulare questi contratti per compiti meramente esecutivi o ripetitivi. E questo praticamente toglieva di mezzo una quantità veramente notevole di mansioni affidabili. Sembra che questo O venga sostituito con la congiunzione, e quindi entrambe le, diciamo, caratteristiche devono essere presenti in quel lavoro perché non possa essere proposto. Una congiunzione che può far cambiare radicalmente spirito di un articolo di legge è incredibile. Potrebbe cambiare, però effettivamente qualche volta il nostro legislatore nell'uso di E oppure ho sottovaluta le conseguenze di quella vocale. Io purtroppo sono arrivata al termine, doveva ancora dire qualcosa, dottoressa Gheido? No, diciamo che io temo però fortemente che in un periodo di crisi come questo gli aggiustamenti aiutino poco, perché quello che ci servirebbe sarebbe una cultura imprenditoriale che imparasse veramente a utilizzare in modo proprio tutte le opportunità che il diritto del lavoro italiano offre. Ci dobbiamo fermare, ritorneremo su questi temi a partire dalla prossima settimana, vedremo domani Giovannini che cosa ci spiegherà di questo piano. Grazie a Valentina Melis, a Gian Piero Falasca, Maria Rosa Gheido, a tutti, buona giornata.